Buon pomeriggio. Il cammino di Gigi D'Agostino inizia il suo viaggio di oggi. Guarderemo insieme orizzonti diversi, da quelli più cupi a quelli più immensi. Libera la tua immaginazione e lasciati trasportare. Prendiamoci per mano. Cominciamo a camminare. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dai sentieri melodici a quelli più ritmati, dai suoni più grezzi ai più raffinati. L'aspetto delle cose varia a seconda delle emozioni. E così noi vediamo magia e bellezza in loro. Ma in realtà magia e bellezza sono dentro di noi. Il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Sono Licia. Vorrei fare una dedica al mio ragazzo Fabio e dirgli che lo amo veramente tantissimo. I giorni che sto passando con lui sono magnifici. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Fermati un istante. Qui c'è musica pesante. Il cammino di Gigi D'Agostino. Questa è musica degna. Prima ti bacia e dopo ti legna. Chiesto da meno di Gigi D'Agostino.

D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Greta da Sondrio, Debbie e Silvia da Bergamo, Gianni da Porto Empedocle o Empedocle. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Poi più ritmati, dai suoni più grezzi ai più raffinati. Sono Ile dalla Sicilia. Molto male moralmente. Ti sto ascoltando. Sei il mio antidepresso. Il cammino di Gigi D'Agostino. Vuoi giorni grigi? Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Capito come? Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo peperoncino. Ah, così. Salutare tutti i miei colleghi camionisti e ricordare a chi non ha rispetto per noi di avere un po' più di pazienza. È giusto. Manu, il camionista. Este programa musical mental, ole, me gusta mucho macho. Que cacho. Io a battere le mani a tempo del lento violento. Non giochiamo. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare al ritmo del lento violento. Il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello. Bianca da Genova, Lorena di Bolzano. Gigi D'Agostino manda un abbraccio a tutti gli uomini e un pigia pigia. A tutte le donne. Ricordo che non sono sordo, ma alcune cose a volte le scordo. Ah, e cazzi. Oh, ma che poeta sono. Ciao G, massimo rispetto. Sì. Suonami quella che nel tuo forum chiamiamo Ureca tra me. E tu la chiami così? Tommaso. Ureca tra me. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Sono Claudio. Sai, sono molto più felice e contento se mi ascolto il tuo lento violento. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica vendetta. Gandino. Dedico passo folk a tutti i miei amici veri tamarri. È la canzone che mi esalta di più quando la suoni in disco. Fammi rivivere quelle emozioni, dai. Oh.

strani che mi donava il mio domani. Temere l'amore e temere la vita. E chi teme la vita è già morto per tre quarti. Bernard Russell. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Perplessità. Mando la pubblicità. Una storia vera. Parlare di Joe DiMaggio significa inevitabilmente dover raccontare anche la vicenda triste della diva del cinema per eccellenza. Joe, dopo la morte di Marilyn, per tutto il resto della sua vita, fece recapitare sulla tomba della sua amata ogni giorno sei rose rosse. Sei rose rosse. Joe DiMaggio, un campione, una leggenda, un uomo innamorato di Marilyn. Questa sera alle 7 su M2O. A tempo di Roberto Molinaro. Di Roberto Molinaro. Di Roberto. Shock. M2O è sul dual disc. Da un lato CD, 15 tracce mixate. Dall'altro DVD, 15 video mixati. Col sistema di ascolto 5.1. Mixa and selecta by Provenzano DJ. Sezione extra con video e foto. M2 al Shock. Il dual disc è nei negozi di dischi e in tutte le edicole. Con la rivista poster Pianeta M2O a 12,90 €. Giants up for Detroit. Ta. M2 online. Leave a message. Connessione veloce. Vai M2O, sei grande, vai Gigi D'Agostino, sei tutta la vita, ciao! Gigi D'Agostino ti ama, sei M2O, per favore, mandatevi qualche cazzo di Gigi D'Agostino! Ciao M2O, siete grandi, Gigi D'Agostino, sei medico! 800-800-626, M2O! con Repubblica XL. XL, il primo magazine che ti dà spazio. Nel numero di gennaio, esclusivo, Carla Bruni ritorna con No Promises. Subsonica, faremo dischi che cambiano la vita. Speciale, musica, cinema, personaggi, i top 100 del 2006. E inoltre 20 pagine di fumetti cult. Il nuovo numero di XL è in edicola a richiesta con Repubblica. M2O dal vivo! Venerdì 5 gennaio. Il cammino. Gigi D'Agostino. At Discoteca Nada Mas. Presso il Cineplex. Genova. Out of mind. Sono DJ Mami, Mancica, Ourense, Spagna. Sabato 6 gennaio. Il cammino. Gigi D'Agostino. At Discoteca Nachtschicht Deluxe. Bösendorf, Austria. Tribe. Fabio Amoroso. At Discoteca River Piper. Strada in Casentino. Arezzo. Domenica 7 gennaio. Il cammino. Gigi D'Agostino. At Discoteca Smallville, Vicenza. M2O dal vivo! Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Volevo dire a Camilla che è un peccato che certi momenti non durino in eterno. Alex da Civitanova. Danzante. Un bacino a Gigi D'Agostino. Ilenia. Dedicare una canzone a una iper ragazza di nome Kianna. Ramon da Torre Maura. E basta chiedere, io sono qua apposta. Vai di cassa. Volevo solo dire ad Andrea di Masca Lucia che lo amo, che lo amo, che lo amo. Anna. Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento. Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. Herbert Hubbard. Gigi D'Agostino. Un modo nuovo per entrare nel mondo dei balocchi. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ti ascolto sempre. Grazie, perché a tua insaputa mi aiuti nella mia solitudine. Enrico. Venerdì 5 gennaio 2007, Gigi D'Agostino suona Genova, alle ore 22.30. Discoteca Nadamas, presso il Cineplex di Genova. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Checco di Como. Volevo dedicare The Riddle a una tipa che mi piace molto e penso anch'io di piacerle. L'unico problema è che è fidanzata. Gigi D'Agostino suona la versione originale. Babylon time to get Ci sentiamo domani. Grazie.